io sono contento per stasera perché avremo un bellissimo messaggio. Il messaggio parte qui, è bello essere in chiesa. E io avevo bisogno delle mie mani libere, per questo ho chiesto un microfono a Pulce, perché stasera dimostrerò che ho un talento in più. Io ho anche la capacità di disegnare. Lo scopriremo insieme, sarò il primo io a scoprirlo con voi. Però effettivamente voglio illustrarvi un passaggio della scrittura attraverso dei disegnini. Vi piace questa cosa? Quanti credono che io so disegnare? Posso vedere le vostre mani? No, no, tenetele bene alte. Telecamera, adesso ne abbiamo due di telecamera, se ci fai un'inquadratura di tutte le persone così me la rivedo a casa e rivedo soprattutto coloro che non hanno alzato la mano. Allora, io non avrò il dono del disegno, ma ho il dono della fede. E tu che non hai alzato la mano, hai il dono del... Bene, allora, io non so da dove partire, ma da qualche parte partiremo. Oggi leggeremo Romani. Romani è una lettera meravigliosa, è una lettera carica, carica di insegnamenti. È l'Apostolo Paolo che scrive questa lettera e in questa lettera spiega letteralmente tutto il Vecchio Testamento alla luce del sacrificio di Cristo Gesù e del nuovo patto. Se tu leggi la lettera ai Romani attentamente, comprendi bene o male tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia è racchiusa nella lettera ai Romani, è una lettera fantastica, meravigliosa. Ti invito a leggerla e oggi leggeremo insieme una buona porzione di Romani, una buona porzione del capitolo 3. Ci piace la Bibbia? Tutti convinti? Bene, allora dimostratemelo leggendo con me, con attenzione, senza distrarvi, tutto quello che andremo a leggere. Sapete una cosa? La distrazione è un furto, vero? E il diavolo si utilizza della distrazione per derubarci delle cose che invece Dio vuole darci, perché Dio vuole arricchirci e invece il diavolo vuole derubare, lui vuole ammazzare, lui vuole distruggere. E quindi noi siamo molto, molto spesso distratti, distratti dalle situazioni, distratti dalle montagne della vita. Quanti di noi hanno circostanze e situazioni talmente ingombranti che prendono tutta la nostra attenzione, catturano tutta la nostra attenzione, quello che di fatto fanno è derubarci invece dei doni preziosi che Dio ci vuole dare. Smettila di guardare alle montagne, smettila di farti distrarre dal diavolo e ricevi ogni benedizione che Dio ha da darti. Quindi ti chiedo, questa sera, non farti distrarre, non farti derubare, segui l'intero messaggio perché Dio vuole arricchirti. Leggiamo insieme, lo leggiamo insieme dallo schermo grande, lo potete leggere con me, Romani capitolo 3 dal versetto 9. È parte di un discorso e quindi continua l'Apostolo Paolo dicendo: che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No, affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Com'è scritto? E qui è l'Apostolo Paolo che fa qualcosa che noi vediamo che ripetutamente fa nella lettera ai Romani, ovvero cita il Vecchio Testamento, prende alcuni versi del Vecchio Testamento e cerca di spiegarli e quindi cita questi versi. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Or sappiamo, va avanti l'Apostolo Paolo, che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo. Anzi, confermiamo la legge. Meraviglioso, vero? Ora lo andiamo insieme ad illustrare e qui ho bisogno del vostro incoraggiamento. Io devo prima di tutto disegnare noi, no? Perché questo capitolo, questo paragrafo dal versetto 10 spiega la nostra condizione, chi siamo noi. E quindi farò la nostra faccina, prendo un altro pennarello perché ho anche esigenze particolari io, in quale artista che sono. Ecco, questo siamo noi, aspetta che diventa meglio. Faccio la riga al lato. Va meglio, vero? Sta andando addirittura meglio di stamattina. Miglioro, figuriamoci se faccio domenica prossima la stessa predica. Allora, questo siamo noi. Vi piace? Non tutti sono convinti. A proposito, il disegno che ho fatto stamattina lo daremo all'asta e poi tutto ciò che ricaveremo lo daremo in beneficenza. Lo stesso avverrà per il disegno di stasera. Ora, questo siamo noi, però sorridenti, con un bell'aspetto. Quello che descrive la parola di Dio che noi abbiamo appena letto è un'immagine di noi molto diversa. La Bibbia sta dicendo che noi siamo corrotti, la Bibbia sta dicendo in questi versi che noi siamo sviati, la Bibbia sta dicendo che nella nostra bocca c'è menzogna, c'è maledizione, che noi siamo veloci, molto celeri a commettere peccato, a commettere violenza, e quindi io devo modificare questo faccino perché non è in linea con quello che è il testo che abbiamo appena letto. Questa è un po' più la nostra condizione. Ecco, vedete? Questa è la nostra condizione. Siamo sviati, siamo peccatori, siamo senza gloria di Dio. E basta accendere la televisione, i notiziari per renderci conto di questo, vero? La cronaca di ogni giorno ci bombarda di notizie che hanno a che fare con violenze, abusi, stupri, truffe, ingiustizie di ogni tipo che causano marginazione, che creano dei disagi. Noi ogni giorno, basta che accendiamo la televisione e ci rendiamo conto che la nostra condizione non è quella originale che Dio ha dato a noi, ha attribuito a noi nella creazione in Genesi. Qualcosa è cambiato ed è cambiato radicalmente a causa del peccato. Il male che ci circonda, l'ingiustizia che noi vediamo, tutte le cattive notizie che ascoltiamo derivano non dalla cattiva educazione dei bambini, non dal fallimento delle scuole, non dalla politica, non da tante altre ragioni, ma primariamente noi, quali credenti, ci dobbiamo ricordare che deriva dal peccato. È peccato che il male di questa società. E noi credenti non ne siamo immuni. Dobbiamo essere anche consapevoli di questo, e per questo ho parlato di noi e non di loro. Perché anche noi credenti, che veniamo qui ogni domenica sera, domenica mattina, e partecipiamo ai gruppi e ci riuniamo in incontri di preghiera, anche noi, se siamo sinceri con noi stessi e ci guardiamo allo specchio, siamo imperfetti. Vero? Tuo marito è imperfetto, vero mogli? Ottimo, bravi, nessuna risposta. Stasera vivrete in pace. Anche i nostri figli sono imperfetti. Anche le persone alle quali siamo più affezionate dimostrano un'imperfezione. E quando noi ci guardiamo allo specchio, certamente vediamo dei difetti. Forse non saremo mai in grado e non ci spingeremo mai a uccidere qualcuno, ma Gesù dice che nel momento in cui noi critichiamo e parliamo male di qualcuno, noi lo stiamo uccidendo, quindi anche noi siamo omicidi. Forse nessun marito tradirebbe sua moglie, ma la Bibbia dice, Gesù dice che nel momento in cui noi solo guardiamo un'altra persona e la desideriamo nel nostro cuore, è come se stessimo commettendo adulterio con quella persona. Quindi siamo tutti peccatori, siamo tutti in una condizione malata, distorta, e ci rendiamo conto che questa condizione ha bisogno di una trasformazione, vero? Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo cambiare. Quando leggiamo la Bibbia è piena di versi, è piena di libri che ci invitano al cambiamento. E ora dovrei disegnare il cambiamento, ed è qui che è proprio bisogno del vostro supporto, perché il cambiamento da disegnare non è mica facile, ci ho pensato e ripensato, e adesso andrò a disegnare, pensate un po', un bruco che si trasforma in una farfalla. Ci credete voi? Io neanche, però grazie per il supporto. Quindi noi abbiamo bisogno di una trasformazione, noi abbiamo bisogno di un cambiamento, noi abbiamo la necessità di passare da quello che è il bellissimo bruco che sto disegnando e che vi piacerà talmente tanto da farvi portare a un applauso, una standing ovation per questo che è il bruco più bello che voi abbiate mai visto. E ancora il meglio deve venire, perché sto per disegnare la farfalla e ho già preso troppo spazio per il bruco e non so dove disegnarla. E quindi la farfalla, partiamo dalla testa, ha un corpicino un po' particolare. Ore e ore di studio in questa settimana, non di Romani 3, ma di come disegnare la farfalla. Siete con me? Romina c'è da qualche parte. Non mi giudicare, Romina? Beh, qualcuno proprio crede in me. Aspetta, non è finito. È finito. Sono soddisfatto anch'io di me stesso. Tutto questo per dire che noi abbiamo bisogno di un cambiamento, vero? Fatemelo scrivere, se non si capisce dalla bellissima immagine che ho fatto. Noi, dalla condizione in cui ci troviamo, abbiamo bisogno di un cambiamento, di una trasformazione. Tutti noi la desideriamo. Come credenti ci riuniamo domenica dopo domenica. Ieri abbiamo avuto una bellissima opportunità di confrontarci con la parola di Dio sul tema delle finanze. E questa è la cosa meravigliosa, perché la Bibbia ci dà la possibilità di comprendere tanti aspetti della vita di ogni giorno, anche le finanze, come gestirle, come cambiare, come essere allineati alla volontà di Dio. E noi attraverso questi appuntamenti, attraverso i corsi che noi facciamo, ci diamo occasione per cambiare, perché desideriamo cambiare, desideriamo essere in linea con quella che è la volontà di Dio. Eppure rimaniamo in quella condizione che viene descritta in Giacomo al capitolo 3, versetto 2, e che Sara ama citare molto spesso: manchiamo ancora tutti di molte cose. È vero, manchiamo ancora tutti di molte cose, per quanto ci sforziamo, rimaniamo imperfetti davanti alla perfezione della volontà di Dio e di Dio stesso. Ed è qui che noi entriamo in crisi, perché vorremmo tanto cambiare e non dobbiamo fare neanche uno sforzo di immaginazione straordinario per comprendere che se tutti noi facessimo pienamente quello che la parola di Dio ci dice di fare, se la società che ci circonda facessero tutti quello che Dio dice attraverso i suoi comandamenti, attraverso la sua legge, la nostra società sarebbe perfetta. Noi non avremmo più la cronaca nei telegiornali ogni giorno. Noi ci ameremmo, nessuno di noi sarebbe sfruttato, maltrattato, abusato, nessuno subirebbe violenze, non ci sarebbero guerre, non ci sarebbe niente di tutto quello che c'è. Ed è qui che dobbiamo renderci conto che la nostra condizione è davvero terribile, ed è per questo che l'Apostolo Paolo si esprime dicendo: sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Noi siamo colpevoli di fronte a Dio, noi siamo mancanti, e io spero che questa sera tu lo possa riconoscere. Perché se ti guardi allo specchio e credi che in te non c'è colpa e sei migliore di qualcun altro, questo già di suo è il tuo fallimento. Il tuo narcisismo, il tuo crederti perfetto, il tuo crederti superiore, ti mette nella condizione di essere il primo fra tutti i peccatori. Gesù l'ha espresso in una maniera diversa, dicendo a chi stava giudicando una donna prostituta: chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E lo stava dicendo a religiosi, a persone che credevano nella legge, a persone che si sforzavano di fare la volontà di Dio ogni giorno. E questi siamo noi. E quindi c'è un altro aspetto che io vorrei vedere con voi, che viene fuori in Romani 3, dal versetto 11, perché la storia cambia. È bellissimo quello che abbiamo appena letto, perché ci viene presentato non più solo il nostro difetto, la nostra mancanza, ma ci viene presentata nella parola di Dio quella che è la nostra soluzione. E la soluzione, e in questa parte sono avvantaggiato, è molto semplice, la soluzione è l'amore di Dio. L'amore di Dio che è stato perfetto e si è manifestato nella sua più grande espressione attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. E noi di questo leggiamo, quando leggiamo in Romani che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, noi leggiamo subito dopo che dice che ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Vogliamo leggerlo insieme? Guardate attentamente queste parole. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente. Ripetete con me: gratuitamente. Gratuitamente, per la sua grazia, per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio ha manifestato amore per un popolo ribelle e per un'umanità che è lontana dalla sua volontà, dimostrando e manifestando grazia. Attraverso cosa? Attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Il concetto della grazia noi lo abbiamo anche nella nostra nazione. Sapete che il Presidente della Repubblica ha potere e autorità di esercitare grazia per qualsiasi detenuto. Lui domani mattina si potrebbe alzare e dire: io voglio che anche la persona che è incriminata del peggior crimine qui in Italia ed è attualmente in una prigione e sta pagando con l'ergastolo la sua colpa, il Presidente della Repubblica potrebbe dire: io lo voglio libero, e quell'uomo uscirebbe dal carcere e non ci sarebbe più nessuna condanna su di lui. È previsto dall'articolo 67 della Costituzione, si chiama grazia presidenziale. Questa autorità ce l'ha anche il nostro Creatore, Dio. Però Lui ha offerto a noi grazia gratuitamente, ma quello che Lui ha offerto a noi gratuitamente è costato a Lui moltissimo. E noi dobbiamo comprendere questa differenza rispetto al Presidente della Repubblica, perché Dio ha sacrificato il suo figlio, ha dato il suo unigenito figlio, lui si è fatto uomo, ha vissuto su questa terra, non ha commesso nessun peccato, ha obbedito alla legge alla lettera, non ha mai disubbidito al Padre, e si è caricato dei nostri peccati e ha permesso che lo torturassero e poi lo ammazzassero su una croce. Perché? Per pagare il prezzo di riscatto per ciascuno di noi. Tu sei gratuitamente graziato da Dio al caro prezzo del sacrificio di Cristo Gesù. Ed è questo il messaggio che noi dobbiamo annunciare al mondo che ci circonda. Noi dobbiamo far sapere al mondo che ci circonda, quando scenderemo in piazza il 23 giugno e adesso con Crescere, questi appuntamenti che abbiamo dove giochiamo con i bambini, abbiamo la possibilità di conversare con i genitori, noi dobbiamo annunciare a questo mondo che c'è una grazia che è stata pagata a caro prezzo dal Creatore, e la grazia ci dà accesso alla vita eterna senza che noi facciamo qualcosa, senza che noi guadagniamo qualcosa, perché non dipende dalle nostre opere e non dipende da quello che noi facciamo, diciamo o come noi ci prodighiamo per conquistare questo diritto. È la sua grazia che ci dà la possibilità di essere salvi per l'eternità. Amen. Ora io ho voluto illustrare la nostra condizione, il nostro cambiamento, la necessità di cambiamento e quella che è la soluzione o salvezza. Perché, vedete, non solo in Romani 3 noi troviamo questi tre aspetti, ma in diverse parti della Scrittura noi troviamo che ci vengono presentati la nostra condizione, il nostro bisogno di cambiamento e la salvezza in Cristo Gesù. La nostra condizione di peccato, la nostra necessità di cambiare la nostra attitudine, la nostra condotta e la salvezza, la croce in Cristo Gesù. E io l'ho voluto illustrare a voi in questa maniera per farvi comprendere che c'è una cosa che è estremamente importante che noi comprendiamo. Quindi per piacere seguitemi in quest'ultima parte del messaggio, perché sapete una cosa, non è importante solo comprendere questi tre elementi che leggiamo in Romani 3 e in altre parti della parola di Dio, ma è estremamente fondamentale, estremamente importante che noi comprendiamo come questi elementi devono essere vissuti nel giusto ordine. Qual è il giusto ordine di questi differenti aspetti? Perché sapete una cosa, la logica umana e ogni religione propone una logica che riconosce che la nostra condizione è sbagliata e riconosce che noi abbiamo bisogno di un cambiamento. E ogni religione ti dirà: ti devi sforzare per cambiare. E nel momento in cui tu avrai la capacità di cambiare, e nella proporzione con cui tu cambierai, potrai avere accesso all'amore di Dio. E questa è una logica religiosa, questa è una logica umana, questa è una logica terrena che l'Apostolo Paolo sta condannando attraverso le parole che oggi abbiamo letto. Lui sta condannando i giudei religiosi che stavano dicendo esattamente questo: voi vi dovete comportare bene, voi dovete cambiare, voi dovete seguire la legge, perché è attraverso la legge che conquistate il diritto della vita eterna, conquistate il diritto dell'amore del Creatore. L'Evangelo della grazia cambia in una maniera sconvolgente l'ordine di questi tre differenti aspetti e dice qualcosa di molto diverso, qualcosa che è illogico per la nostra mente terrena, qualcosa che ci sconvolge perché ci permette realmente di comprendere di quale grande amore siamo amati dal Padre. La logica della grazia ci dice che nella condizione in cui noi ci troviamo e senza cambiare una virgola di chi noi siamo e di quello che noi facciamo, noi siamo già amati da Dio. Dio ci ha amati anche quando e ancora quando noi eravamo nei nostri peccati. E in questo è manifestato l'amore di Dio per noi, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi. Questo è quello che dice 1 Giovanni. E la logica giusta sta proprio in questo ordine, che nella nostra condizione Dio ci ha amati e ha dato una soluzione che ci offre la possibilità di vivere il cambiamento. E quindi le frecce cambiano. È vero, vogliamo cambiamento. Quanti vogliono cambiamento nella propria vita? Credo tutti. Ma la logica che noi dobbiamo comprendere è che il cambiamento è possibile passando per l'amore di Cristo Gesù. Noi dobbiamo ricevere l'amore di Cristo Gesù e attraverso l'amore di Cristo Gesù abbiamo la possibilità di vivere cambiamento. Questo è fondamentale, fratelli e sorelle, non c'è questo. Questi sono sforzi tuoi personali, questa è religione, questo è moralismo, questi sono i tuoi tentativi, questi sono i tuoi sforzi ed è sbagliato perché in questo non c'è soluzione. Tu non hai la possibilità di conquistarti la salvezza con i tuoi sforzi personali, altrimenti Gesù non sarebbe venuto su questa terra. Se io e tu... condizione. Questa freccia ci sta parlando della fede che noi dobbiamo porre nel sacrificio e nell'amore di Dio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, dice poi, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Noi abbiamo salvezza e l'opportunità di cambiare, possiamo vivere delle conquiste nella nostra vita, ma dobbiamo comprendere che prima e più di ogni altra cosa dobbiamo ricevere il Suo amore. E lo so, sapete qual è il problema? Il problema è questo, che noi ci riuniamo qui domenica dopo domenica, nelle nostre riunioni, come abbiamo fatto anche ieri, ed è molto utile, e parliamo di cambiamento. Ci incontriamo con le coppie che sono sposate per parlare del cambiamento nella coppia affinché le coppie funzionino. Ci incontriamo con i giovani, gli upside down, venerdì dopo venerdì, e parliamo delle debolezze sessuali, di quelle che sono le impurità e la tentazione che ogni ragazzo vive. Parliamo in tutte le nostre, in tutti i nostri incontri di tanti versi che ci vengono proposti dalla parola di Dio e ci parlano della necessità di cambiare la nostra vita, di essere trasformati. E a furia di ascoltare questi messaggi possiamo correre il rischio di vederci indegni davanti a Dio e possiamo correre addirittura il rischio di sentirci condannati, accusati dal diavolo, al punto tale che arriviamo a dire: la Chiesa non fa per me, io non sono degno di questo amore, io non riesco a cambiare me stesso, io continuo a fallire, io continuo ad essere un peccatore. Io continuo ad avere pensieri impuri. Chi sono io per andare dal Padre e pregare a Lui? Perché Lui dovrebbe ascoltare me, che ho la mia dipendenza dal sesso, dalla pornografia, che ho la mia dipendenza all'alcol, al gioco? E ci allontaniamo da quel Dio che invece ci sta cercando e ha le braccia aperte e ci vuole accogliere in quell'abbraccio, così come siamo. E parlo di abbraccio perché Gesù, per spiegare la grazia, ha raccontato proprio la storia di un padre che ha perso suo figlio perché nella sua ribellione ha voluto spendere tutti i soldi, tutta l'eredità e darsi alla pazza gioia nei piaceri della vita. E a un certo punto si è trovato devastato dal peccato, perché il peccato produce morte, produce quel vuoto interiore che noi tutti conosciamo molto bene. È rientrato in sé, quel figlio è tornato dal padre. E il padre non lo ha aspettato con un dito puntato, dicendo: tu sei un verme e io mi aspetto che tu cambi in una farfalla, e nel momento in cui tu diventerai farfalla potrai ricevere il mio abbraccio. Il padre, nella condizione così com'era suo figlio, e puzzava ancora di quei porci a cui lui dava da mangiare, pieno di tutti i ricordi dei peccati che aveva commesso e probabilmente, anzi quasi certamente, con il cuore pieno di desideri carnali. Il padre lo ha visto nella sua condizione e lo ha abbracciato così com'era. Noi dobbiamo comprendere che questo abbraccio è disponibile per noi, e non era disponibile solo quando abbiamo sentito per la prima volta il messaggio dell'Evangelo, ma continua a essere disponibile ogni giorno. La parola di Dio dice che le sue misericordie nei confronti nostri si rinnovano ogni giorno, che Lui è un Dio di pazienza, che Lui rinnova il suo amore per me e per te. Non so quale settimana tu abbia passato, non so con quale cuore tu sia venuto questa sera, non so quali pensieri impuri hai, non so quale parte di questi versi ti tocca da vicino, perché sai che la tua bocca proferisce cose che non vorresti dire, che la tua mente è piena di cose perverse che non vorresti e non avresti la forza neanche di raccontare. Ma così come sei, nella tua condizione, io ti posso garantire che Dio ti ama e Dio ti accetta e ti accoglie e ti abbraccia stasera. E non aspetta che tu cambi e diventi una persona migliore per ricevere e per beneficiare del suo amore, ma ti accoglie così come sei. E in quell'amore e in quell'abbraccio tu hai la possibilità di vivere trasformazione. Sono qui, pastore, da 3 anni. Come pastore hai tante responsabilità. La più grande è quella spirituale, la responsabilità di vivere una vita santa, di metterti continuamente in condizione di offrire un esempio santo e di essere integro. Eppure posso fare una confessione pubblica. Nel pensare a questo messaggio in questa settimana, io riconosco che non sono nessuno e non sono niente. Nelle mie forze non arrivo da nessuna parte. Nella mia mente ci sono ancora pensieri impuri. Nel mio cuore io cado nel peccato dell'invidia. In me possono nascere con estrema facilità dei desideri di vendetta e magari sono abile a non manifestarli, come noi cristiani diventiamo particolarmente abili a mostrare una faccia di noi che è perfetta, che è pura, che è linda. Ma nel nostro cuore, se siamo sinceri con noi stessi, e possiamo esserlo anche gli uni nei confronti degli altri, possiamo ammettere che c'è peccato dentro di noi. Esattamente come dice Romani 7, qualche capitolo dopo, che quello che vorremmo fare, quello non facciamo, e quello che non vorremmo fare, quello facciamo. È la condizione di ciascuno di noi. Però poi Romani 8 dice che non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, e poi presenta la potenza che c'è in questo abbraccio, nell'amore con Dio e nell'intimità con lo Spirito Santo, quella potenza che ti permette di sentirti restaurato in Cristo e ti dà la possibilità di rialzarti dopo qualsiasi peccato che hai commesso e riprendere il cammino. La grazia non è la concessione a continuare a peccare. La grazia è quella possibilità che si rinnova ogni giorno per noi di riabbracciare il Padre e riottenere la forza di combattere contro il peccato, perché il peccato non ha nulla da aggiungere nella nostra vita, ma solo da derubarci. Sapete cosa fa anche quell'abbraccio? Quell'abbraccio ci dà la possibilità di vedere il nostro fratello e la nostra sorella con occhi diversi. Perché quando abbracciamo il Padre nella nostra condizione, noi ci rendiamo conto che in questo abbraccio siamo uniti con tanti altri fratelli e altre sorelle, peccatori come noi, falliti come noi. E abbiamo la possibilità di abbracciare anche loro, perché nessuno di noi ha più la possibilità di stare seduto su un trono di giudizio per giudicare l'altro. Perché sì, potrai mettere in evidenza quello che è il peccato e la debolezza dell'altro che tu hai già vinto. Questo non ti rende migliore, perché anche tu sei un fallito e anche tu pecchi. Quell'abbraccio ci dà la possibilità di riconoscerci tutti nella stessa condizione, tutti peccatori e tutti salvati per grazia di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo abbracciare il nostro Dio, e lo vogliamo fare andando a confermare quello che ci viene fatto come invito in Ebrei al capitolo 4 dal versetto 14. Leggete con me quest'ultimo verso. Dice: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Siamo fermi nella fede che professiamo. Qual è la fede che professiamo? Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. La parola di Dio dice: accostiamoci. La parola di Dio fa un invito a noi, sua Chiesa: accostiamoci al Padre, accostiamoci a quel trono di grazia. Non è un trono di giudizio, è un trono di grazia. Se fosse un trono di giudizio, tu non potresti minimamente avvicinarti, perché saresti giudicato, ma è un trono di grazia ed è per questo che viene accolto. Stasera io e tu possiamo abbracciare il Padre nella nostra condizione. Forse puoi dire: ma Mirko, è da mesi, da anni che io non prego. È da mesi, da anni che non leggo la Bibbia personalmente. È da troppo tempo che ci sono dei peccati che neanche ho confessato a Dio. Qualsiasi sia la tua condizione, tu hai il privilegio stasera di ottenere quell'abbraccio. Ricambialo. Accetta l'offerta del Padre. Corri tra le sue braccia, ricevi quell'amore che è illogico, che non si può comprendere, ma lo puoi ricevere ed è accessibile per ciascuno di noi. Vogliamo pregare. Padre, noi ti ringraziamo perché così come siamo possiamo venire a te. Padre, io ti ringrazio perché possiamo accedere a quel trono di grazia. Nella nostra condizione, nelle nostre debolezze, nei nostri peccati, nelle nostre mancanze, nei nostri fallimenti, nelle azioni sbagliate, ma anche in quelle cose che di nascosto, quando nessuno vede, facciamo e che sono in disubbidienza, in disaccordo con la tua volontà. Così come siamo, noi veniamo a te, Cristo Gesù, per chiederti perdono e salvezza. per chiederti di abbracciarci, riempirci del tuo amore che ci dà sicurezza, ci dà forza, ci dà garanzia di poter andare avanti e di poter credere nella trasformazione alla quale tu ci hai destinati. Grazie, Padre, perché la trasformazione non è la condizione attraverso la quale possiamo accedere a te, ma è un frutto, è un risultato dell'accesso che già abbiamo garantito attraverso la croce di Cristo Gesù. Io prego che tu questa sera possa guarire i nostri cuori, che tu questa sera possa farci sentire il tuo amore, che tu possa completarci, perché noi ci sentiamo così mancanti, che tutto quello che tu hai fatto, Gesù, 2000 anni fa, possa avere un senso oggi nelle nostre vite, cambiando la nostra storia e mettendo, piazzando nella nostra mente la sicurezza della verità che tu hai annunciato per noi. Che non è in virtù di opere, che non è in virtù di quello che noi possiamo fare, ma è in virtù del tuo amore che noi abbiamo la possibilità di stare alla tua presenza, abbracciati e vivere con te. Io ti prego che ognuno qui, dalla prima all'ultima fila, chi è in piedi, chi è seduto, chi è giovane, chi è più anziano, possa ricevere stasera il tuo amore e possa camminare a partire da stasera con una convinzione nuova. Una convinzione del fatto che è amato, che è amata e che non c'è nulla che può separarci dal tuo amore. Padre, ti prego che tu possa togliere ogni bugia del diavolo, ogni sua condanna, ogni suo dito puntato contro di noi, che ci fa sentire indegni, che ci fa sentire incapaci, che ci fa sentire dei cristiani falliti, che non dovrebbero neanche riunirsi, che non dovrebbero neanche pregare, che non avrebbero il diritto di aprire la Bibbia. Noi vogliamo mettere un punto a quelle che sono le sue bugie e vogliamo rifiutare quello che lui dice sul nostro conto, perché noi siamo salvati per la tua grazia, Gesù. Abbiamo il meraviglioso diritto di stare alla tua presenza in virtù di quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Te adoriamo, Gesù, te innalziamo in questo momento. Forza, facciamolo insieme. Abbraccia il Padre, adora Cristo Gesù per quello che ha fatto per te. Uniamoci in adorazione, perché è meraviglioso il nostro Dio, pieno di misericordia, pieno di amore, pieno di grazia. Alleluia, Gesù.